Zibaldone. Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone. Un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. Ed eccoci qui un altro pomeriggio insieme sulle frequenze di Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone. E già lo sapete, io sono Steven Forti e questo è un programma in italiano non solo per italiani che va in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica radio libera barcellonese 91.4 FM sul litorale catalano, in streaming all over the world dalla web contrabanda.org o org che dir si voglia, e infine i nostri podcast che potete scaricare dal blog zibaldone.contrabanda.org. Una dozzina d'anni ormai di podcast, magari quello che state ascoltando proprio ora è il podcast di questa puntata che è andata in onda magari il venerdì scorso, quello prima. E tante cose quest'oggi, musica e letteratura ci accompagneranno, però non vi annuncio ancora quali sono gli ospiti, quali sono i temi. Andiamo subito con una canzone dei ritmi un po' estivi che ci introduce la puntata di quest'oggi. Guarda quella là, guarda quella là, guarda come fa, guarda come fa, guarda con chi sta, quante facce avrà quella femminista là. Ma guarda quella là, guarda quella là, e guarda come fa, guarda come fa, guarda con chi sta, cosa penserà se un pensiero ce l'avrà. È per forza di sinistra, certamente odia i maschi, odia i maschi. Sicura e poi mi sa, la ceretta non la fa, chi vuoi che piacerà. La sua amica sempre in tiro, si è rifatta di sicuro, di sicuro. Dai c'ha l'occhio sempre a palla, ma che culo porta in giro, si è rifatta te lo giuro. Guarda quella là, guarda quella là, guarda come fa, guarda come fa, guarda con chi sta, quante facce avrà quella femminista là. Che roba, bruceranno all'inferno una figlia e due madri, eppure contro il governo. Crescerà sicuramente con la propensione all'orgia, come quella Lucrezia dell'Italia dei Borgia. Ma guarda quella là, guarda quella là, guarda come fa, guarda come fa, guarda con chi sta, quante facce avrà quella femminista là. le vedo ridicole, tutte dentro nel coro, a parlare tra loro, come fate ignoranti, romanzetti, bandiere, fiorellini tra i denti, tutta un'armocromia e nessuna eleganza, ci vuol tanta pazienza, oh, una santa alleanza. Ma guarda quella là, guarda quella là, oh, guarda come fa, guarda come fa, guarda con chi sta, quante facce avrà quella femminista là. Proprio quella là, quella femminista. Quella là si intitola il brano con cui abbiamo aperto la puntata di quest'oggi di Zibaldone. La voce era quella di Giua, al secolo Maria Pierantoni Giua, accompagnata dalle Blue Dolls, una canzone di satira, di ironia, di critica, se volete, politica. Giua era da un po' che non faceva canzoni nuove, ha 4 album alle spalle, l'ultimo Piovesse sempre così è stato molto apprezzato. Negli ultimi mesi ha girato in lungo e in largo l'Italia con diversi spettacoli teatrali, tra l'altro anche uno spettacolo intitolato La Buona Novella, ispirato all'omonimo album di Fabrizio De André. Banzo, bentornato a Zibaldone, ti vedo, ti sento, ti percepisco più ergonomico che mai. Una canzone che per l'Italia dei tempi di Meloni e per i discorsi che circolano riguardo al femminismo, alla questione di genere, eccetera, insomma, è più che doverosa, direi. Che ne dici? Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Sì, abbiamo una Presidente del Consiglio che vuole che si usi il maschile quando si parla di lei, come è ormai noto, è stata una cosa che a suo tempo ha destato perplessità e ironie, però vabbè, è drammatica più che altro. Si sente che la canzone di Giua è molto molto nuova, perché parla proprio, affronta, accenna a tematiche che hanno solcato il mare della stampa italiana, come per esempio l'armocromia. C'è un riferimento velocissimo, insomma, se leggete i giornali sapete a cosa mi riferisco, e in effetti è una canzone che vedo essere uscita su YouTube una settimana fa più o meno. E quindi è anche normale che diciamo includa riferimenti a questi ultimi mesi di Italia, dove non si sa esattamente, scusa la frase banale, dove finisca la tragedia e dove inizi la farsa, anche se con questo governo, insomma, la tragedia prosegue. Ne abbiamo parlato in fin dei conti anche la settimana scorsa nello speciale Vita, Morte e Miracoli del Caimano, perché in fin dei conti, insomma, torniamo sempre o almeno anche lì. E una cosa interessante riguardo a questa canzone di Giua è che si è ispirata l'artista ligure in un podcast di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri intitolato Morgana Storie Libere, che parla appunto di tante cose che hanno a che fare con le donne in Italia e la situazione politica. E un podcast che anche noi vi consigliamo. Banzo, quest'oggi puntata dove ci sarà sempre tanta musica, parleremo di alcuni nuovi album anche molto interessanti, molto particolari, come quello di Paolo Angeli, Io sono un cane, ma poi ci sarà anche molta letteratura, perché avremo, lo scoprirete tra pochissimo, il nostro ospite di quest'oggi è Andrea Prandstraller, che ci presenta il suo nuovo romanzo, un romanzo d'esordio, Il ragazzo che sparò a Mussolini, la prima indagine del commissario Emiliano Solerti. E poi torna a trovarci Berardo con i consigli musicali, più o meno come ogni mese, un omaggio a Francesco Nuti, e poi insomma tornano anche le nostre rubriche, anche lì torneremo a parlare di libri. Banzo, prima di parlare con Prandstraller, però ci andiamo ad ascoltare un altro brano di un artista che in realtà avevamo già proposto qui su Zibaldone qualche tempo fa. Sì, precisamente, per chi vuole andare a recuperare il podcast, se vi piace la canzone, nella puntata del 14 aprile 2023, si tratta di degli Angus MacHogue, un gruppo modenese. In realtà c'è questa incertezza perché è nato originariamente come progetto solista di Antonio Tavoni, ma ormai a tutti gli effetti un gruppo, quindi diciamo che può sussistere questa ambiguità sull'uso del singolare del plurale. E sono appunto, detto, di Modena, però cantano in inglese, che è una cosa abbastanza poco comune per noi, perché copriamo molti artisti italiani, però predomina la lingua italiana, e diciamo che lo stile è più o meno folkeggiante, americaneggiante, ecco, diciamo, siamo un po' un alt folk indie, per darvi un'idea, e questa è la canzone che dà il titolo al nuovo album Sirius, uscito in aprile. E ce l'andiamo a sentire, poi dopo troviamo Andrea Pranstraller e parleremo di questo romanzo che, come scoprirete tra poco, è ambientato nel 1926 a Bologna, in un momento molto particolare, durante, diciamo, la consolidazione del regime franchista, il regime fascista. Scattered clouds, and it was beautiful to be as far and high as I can see. It seems to ora in collegamento telefonico con noi dall'Italia Andrea Pranstraller, autore di un romanzo noir con ambientazione storica, Il ragazzo che sparò a Mussolini, la prima indagine del commissario Emiliano Solerti, un giallo storico appunto. E prima di cominciare a parlarne diamo il benvenuto al nostro primo ospite, Andrea Pranstraller. Andrea, benvenuto a Zibaldone. Grazie, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. È il tuo esordio come scrittore, questo libro. Insomma, hai fatto tante cose nella vita, hai lavorato molto, no, con i cortometraggi, le fiction, i documentari, che poi sono stati trasmessi dalla Rai e da tanti altri canali. Hai scritto anche delle sceneggiature e adesso invece, insomma, hai deciso di dedicarti anche alla scrittura vera e propria di un romanzo con questo Il ragazzo che sparò Mussolini, che lo ricordo è uscito l'anno scorso. Sì, in realtà è stato un passaggio abbastanza semplice, perché appunto io sono anche uno sceneggiatore, quindi mi volevo cimentare su qualcosa che assomigliasse alla scrittura cinematografica, ma che fosse in tutto per tutto un racconto. Devo dire che quando ho cominciato a scrivere questo libro non ero tanto sicuro che sarei arrivato alla fine, che sarei stato capace di arrivare alla fine, però poi scrivendo mano a mano, insomma, la cosa è venuta e quindi mi pare che il risultato sia abbastanza apprezzabile, almeno quanto mi dicono. La scorsa settimana, tra l'altro, hai presentato il libro anche qui a Barcellona, alla Libreria Italiana Le Nuvole. È un romanzo che, a quanto si dice, sembra essere appunto il primo di una serie che ci riporta proprio nel cuore degli anni venti, del ventennio fascista, a partire da un avvenimento che è quello del tentativo di omicidio di Mussolini il 31 ottobre 1926 a Bologna. Il cui responsabile ufficialmente fu Anteo Zamboni. Ecco, in realtà ci sono tante ombre anche dal punto di vista storico su questo avvenimento, e tu parti proprio da lì per costruire questo tuo romanzo. Raccontaci un po'. Sì, in realtà è proprio questo che mi ha stimolato. Cioè, il romanzo parte dalla lettura che ho fatto come appassionato di storia. Purtroppo non sono uno storico, ma un appassionato sì, di un libro di storia che metteva così, indagava su quelli che sono i misteri e le contraddizioni di questo attentato, che è il terzo attentato che Mussolini subiva come capo del governo, perché non dobbiamo dimenticare che fino al 26 Mussolini era capo del governo, non era ancora il duce. Quindi in realtà voglio dire, si presentava in una veste ancora vagamente democratica, molto vagamente, ma insomma è il terzo attentato che subisce, e la cosa molto particolare è che questo attentato viene fatto, almeno la storia riporta questo, ma è molto strano, da un ragazzo di 15 anni, Anteo Zamboni, figlio di un tipografo anarchico che però si era molto avvicinato alle posizioni dei fascisti, e questo ragazzo, tra l'altro, oltre a essere un quindicenne, era soprannominato in famiglia il Patata, nel senso che era un ragazzo, diciamo così, non un minorato, ma insomma uno un pochino tardo, ecco. Non molto sveglio, dai, mettiamola così. Non molto sveglio, sì, esatto. Quindi io sono partito da questo libro di storia perché mi interessava raccontare questa storia, che è una storia vera, quindi ho utilizzato tutti i dati e le informazioni vere che questa storica aveva scandagliato per costruirci intorno una storia che io definirei poliziesco, non so, le sfumature del giallo poliziesco, noir, compagnia bella, mi sfuggono un po', ma comunque insomma è una storia in cui c'è un poliziotto che indaga, ecco, sostanzialmente è questo. E mi piaceva lavorare su dei personaggi di finzione che sono quelli che ho inventato io, quindi il commissario Solerti, il suo collaboratore Nicola Clemente e altri personaggi che sono nel libro, mi piaceva lavorare con questi personaggi di finzione, però inseriti in un contesto rigorosamente storico. E a questo proposito ti lancio subito una domanda, dopo magari torniamo anche un po' a parlare del noir, o insomma di questo genere letterario che tra l'altro è molto di moda in questi ultimi anni. E, ti sei ispirato, diciamo, per creare il tuo protagonista e anche altri dei personaggi del libro in figure reali, storicamente esistite, o invece, diciamo, ti sei fatto solo hai seguito solo la tua fantasia? No, lì, cioè, per quanto riguarda tutte le figure inventate del libro, ho seguito semplicemente la mia fantasia e naturalmente qualcosina di autobiografico, ci sono insomma varie cose che stanno nella mia storia, eccetera. Quindi i personaggi inventati sono rigorosamente inventati, i personaggi storici sono rigorosamente storici, solo che queste due cose io ho cercato di intrecciarle e amalgamarle in modo che ne risultasse appunto un'indagine. E torniamo un attimo indietro alla storia, diciamo, in cui si inquadra il tuo romanzo, no? Spiegavi prima appunto l'attentato a Mussolini per il quarto anniversario della marcia su Roma che si tiene a Bologna, diciamo in un momento in cui dentro il fascismo ci sono insomma lotte di correnti, in un momento in cui si sta incominciando a costruire la dittatura vera e propria, no? E tra l'altro Anteo Zamboni, che come tu dicevi un ragazzino che viene subito individuato come il responsabile e linciato seduto a stante, se non ricordo male, in via Indipendenza, in centro proprio a Bologna. Sì, esatto. Dopo questo sparo che sfiora Mussolini molto da vicino, ma senza colpirlo, nel parapiglia e nella confusione viene individuato questo ragazzino, Anteo Zamboni, e i fascisti del servizio d'ordine e insomma quelli che stavano intorno lo pugnalano a morte decine di volte e poi lasciano il cadavere esposto davanti alla statua del Nettuno. Questo è quello, è diciamo la versione ufficiale che viene accreditata normalmente, insomma, per cui durante il fascismo Anteo era un pericoloso anarchico, dopo il fascismo, la caduta del fascismo, è diventato il simbolo di una resistenza al fascismo. All'interno di questa dinamica però ci sono moltissime contraddizioni che fanno pensare che in realtà non sia stato Anteo a sparare e che sia semplicemente un capro espiatorio trovato lì sul momento per sviare, diciamo, quello che potrebbe essere stato un complotto fra le varie fazioni del fascismo e in particolare fra l'ala, diciamo così, più radicale, che era guidata da Farinacci, e quella invece più legalista che seguiva Mussolini. Beh, infatti ricordiamo tutte, diciamo, le tensioni che vive il movimento fascista in quegli anni, soprattutto dopo l'omicidio di Matteotti, la crisi dell'autunno del 24, la svolta, sì, no, del 3 gennaio del 25, quando insomma è soliti ricostruire storicamente una visita che i RAS locali, tra cui appunto Farinacci più radicali, fanno a Mussolini dicendogli: oh, insomma, tu dai qua il colpo, il pugno sul tavolo e instauriamo davvero una dittatura, oppure prendiamo noi il potere del fascismo, no? E da lì appunto il giro, la svolta del 25 con l'inizio dell'approvazione di quelle che poi saranno conosciute come leggi fascistissime, che in fin dei conti portano a illegalizzare i partiti politici e mettere la parola fine al sistema liberale democratico. E tra l'altro proprio l'avvenimento di Bologna che insomma, da cui tu parti per costruire il tuo romanzo, segnerà poi, ecco, forse la chiusura di quelle che sono le leggi fascistissime, con l'approvazione poco dopo, no, delle leggi di un altro blocco di leggi a difesa dello Stato. Sì, esatto, è proprio in conseguenza di questo attentato che vengono approvate le leggi di difesa dello Stato, tra cui la messa, ovviamente la messa al bando dei partiti, dei sindacati, eccetera, ma anche l'istituzione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che è un'aberrazione giuridica, in realtà è un tribunale le cui sentenze sono inappellabili. Che diventerà uno strumento importantissimo per diciamo, la lotta agli antifascisti e la repressione dell'antifascismo. Facciamo una piccola breve pausa musicale e poi rientriamo qui insieme a te. Thank you. questi sono i Death Mantra for Lazarus, un brano strumentale che accompagna bene le riflessioni che stiamo facendo qui con Andrea Prandstraller per parlare del suo primo romanzo uscito lo scorso anno, Il ragazzo che sporò Mussolini, la prima indagine del commissario Emiliano Solerti. Il brano dei Death Mantra for Lazarus si intitola Nude. E Andrea, parlavamo prima del contesto storico in cui si inquadra il tuo romanzo, parliamo un po' della storia che tu sviluppi, ecco, a partire da questo, insomma, il tuo commissario che cosa fa in questo frangente nella Bologna che ha linciato, almeno una parte dei fascisti hanno linciato Anteo Zamboni, considerato l'attentatore di Mussolini? Intanto Emiliano viene incaricato dal questore di svolgere un'indagine molto riservata. Questo perché? Perché appunto le sollecitazioni per avere delle spiegazioni a questo stranissimo attentato evidentemente vengono anche dai vertici del Partito Fascista, dove il sospetto che appunto si tratti di un complotto interno al fascismo evidentemente alberga, perché tutte le circostanze sono molto molto strane. C'erano più di 1000 persone nel servizio d'ordine tra carabinieri, fascisti della milizia di Mussolini, cioè sbuca un ragazzino di 15 anni e spara al duce o al futuro duce. Tutto questo suonò anche all'epoca piuttosto strano. Quindi viene incaricato dal questore di svolgere questa indagine molto, molto riservata. Cosa fa Emiliano? Semplicemente analizza quelli che sono gli elementi di prova che sono stati raccolti subito dopo l'attentato. E siccome li analizza con un occhio di un poliziotto che tra l'altro viene da una storia di una famiglia contadina, socialista, eccetera, eccetera, scopre che all'interno di queste testimonianze ci sono tantissime contraddizioni. Faccio solo un piccolo esempio, tanto per farmi capire. Uno dei personaggi del libro è quella persona che subito dopo il primo sparo blocca la mano dell'attentatore che stava per sparare un secondo colpo. Però non lo vede in faccia, perché sta alle sue spalle. Questo personaggio è il tenente Pasolini, e cioè il papà di Pierpaolo Pasolini. Mm-hmm. Questa è una strana coincidenza storica, sì. Ma insomma c'è una scena in cui Solerti lo interroga e mette in evidenza il fatto che lui è sicuro che fosse stato Anteo a sparare, ma in realtà non ha per niente visto in faccia l'attentatore. Una serie di indizi di questo tipo porteranno poi Emiliano a concludere che probabilmente o Anteo è stato messo in mezzo a una faccenda più grande di lui, oppure addirittura appunto è stato usato come capro espiatorio per coprire probabilmente un complotto ordito dalle frange più radicali del fascismo nei confronti del Duce, che come dicevi prima appunto c'erano Farinacci e altri RAS locali che premevano perché fosse instaurata una dittatura vera e propria, mentre Mussolini era più cauto. Quindi è un'indagine basata sul fatto che un bravo poliziotto, seppur giovane, analizza tutti gli indizi e cosa che non avevano evidentemente fatto i suoi colleghi prima, e giunge a delle conclusioni diverse. Questa è la sostanza della storia. Senza fare spoiler, evidentemente, perché invitiamo i nostri ascoltatori a comprarsi, a leggere il libro, però insomma alla fine arriva a trovare il colpevole o è invece, diciamo, non trova niente? Questo lo possiamo dire magari, Andrea? Sì, allora Emiliano arriva a trovare il colpevole, e questa ovviamente è una invenzione mia, cioè è una svolta drammaturgica mia, perché in realtà questa storia è sempre rimasta avvolta, diciamo, nel mistero. Certo. Io però gli faccio trovare un colpevole Però la conclusione di questa indagine è sostanzialmente inutile, e questa è la cosa che a me interessava anche raccontare, perché in realtà i veri colpevoli non saranno mai smascherati, perché non è possibile farlo, nel senso che il potere non vuole che i veri colpevoli escano fuori. E questa, senza appunto fare delle grosse anticipazioni, ma nei romanzi successivi sarà un po' diciamo il marchio narrativo di Emiliano Solerti. Cioè Emiliano Solerti, giovane poliziotto, arriva a capire qual è la verità, ma il risultato delle sue indagini si scontra sempre con la volontà del potere di tenere la verità nascosta. Guarda, non ti dimenticare, non vorrei andare troppo per le lunghe, ma non ti dimenticare che io sono nato, cioè sono cresciuto durante gli anni 70 e 80, certo, in un paese in cui i misteri sulle stragi e Quagliabella erano quasi all'ordine del giorno. Cioè, poi parlando di Bologna, evidentemente parliamo di 1980, il 2 agosto, e la strage della stazione di Bologna, che chiude fino a un certo punto un'epoca che era cominciata a Piazza Fontana nel 69. E a questo proposito, esatto, accennavi già il prossimo libro, il prossimo volume della serie, ma insomma ci stai già lavorando, Andrea? Sì, in realtà ci ho già lavorato al secondo e anche al terzo volume, che sono due storie vere, anche queste, in cui io appunto ho inserito Solerti e gli altri personaggi che lo accompagnano nel primo libro in delle indagini che riguardano queste storie vere, che però non sono mai arrivate a una conclusione. E poi ne riparleremo sicuramente quando escono i libri, ma sempre ambientate nel ventennio fascista? Sì, una è questa, dunque, il ragazzo sparò Mussolini del 26, poi c'è un'altra storia nel 27 e una nel 28, quindi stiamo andando piano, anno per anno, diciamo. Sì, negli anni proprio della consolidazione della dittatura. E prima di salutarci, abbiamo ancora alcuni minuti, volevo tornare con te sulla questione del genere, no? Da un lato il genere nel senso di noir o giallo, no? Viene presentato dalla casa editrice come un giallo storico, dall'altra quello del romanzo storico. Ecco, e qui ti faccio una doppia domanda, no? Da un lato se hai avuto delle influenze, penso ad esempio a chi ha lavorato anche in uno stile simile con romanzi ambientati dei noir poliziotteschi negli anni del ventennio, penso a Carlo Lucarelli, una sì, bella serie che aveva scritto già negli anni 90, insomma agli inizi, ecco, della sua carriera come scrittore, ma poi anche pensando al romanzo storico, insomma tutto il grande dibattito che c'è stato negli ultimi anni riguardo alla trilogia di Antonio Scurati su Mussolini, no? E quindi questo dialogo, a volte visto positivamente, altre volte negativamente, tra storia e letteratura, proprio per quello anche di cui parlavamo prima, insomma un romanzo ovviamente non è un saggio storico e inventa delle cose che sono in questo caso invece basate anche su fonti attendibili e su lavori storiografici. Ecco, da un lato appunto a chi ti sei ispirato e dall'altro che ne pensi anche riguardo a questa seconda questione della relazione storia e letteratura? Ma guarda, l'ispirazione in realtà io non... Ti ripeto, forse non l'ho detto, ma insomma non sono un grandissimo lettore di noir o di polizieschi. Se dovessi dire, cioè quello che mi interessava era raccontare una bella storia, una storia che per me era interessante, che mi muoveva qualcosa dentro, che aveva le caratteristiche per fare dire ai miei personaggi qualcosa che io sento. Se dovessi fare un paragone, un'ispirazione del tutto irriverente, direi che è più da uno scrittore come Simenon che io mi ispiro, nel senso che quello che mi interessa non è tanto strettamente il meccanismo del giallo, tanto è vero che me l'hanno anche rimproverato dicendo che appunto non ha i meccanismi classici del giallo, che sono evidentemente, io non lo sapevo, ma evidentemente sono codificati in modo molto stretto, cioè deve succedere questo, deve succedere questo, deve succedere quest'altro. Io ho scritto non conoscendo questi meccanismi predefiniti, diciamo così. Quello che mi interessa in realtà è la descrizione dei personaggi, dell'epoca storica e delle psicologie dei personaggi. Mi interessano, questa cosa mi interessa di più della storia in se stessa, dell'avvenimento in se stesso, ecco. Poi dopodiché nel rapporto fra storia e romanzo storico, non saprei molto che dire. Io ho cercato di essere molto accurato nella ricostruzione dell'epoca, nel senso di non metterci dentro delle cose inverosimili, certo, cose che non erano state inventate o cose che all'epoca non esistevano. Ho cercato di controllare tutti questi dettagli in modo che risultassero credibili, veri, ecco. Poi naturalmente sono due strade completamente diverse. Uno storico è molto più attento in realtà ai fatti, come si sono svolti. Insomma, qui sarebbe un bel dibattito, poi per capire se poi ci riesce, non ci riesce, qual è il punto di vista, eccetera. A me interessava raccontare una bella storia e raccontarla attraverso dei personaggi che mi piacessero. Naturalmente nel libro non c'è solo un'indagine poliziesca, ma c'è anche una grande storia d'amore controversa fra il commissario e una donna, e ci sono molti altri personaggi di contorno, diciamo, che secondo me rendevano il racconto fruibile, vivace, ecco. Ascolta, per chiudere proprio una curiosità che ho, insomma, il commissario Solerti mi sembra di capire che con le sue indagini, questa del libro che stiamo presentando quest'oggi, ma anche le prossime a cui stai lavorando e vedranno la luce prossimamente, mi sembra che non si faccia molti amici ai vertici del regime, o sbaglio? No, assolutamente no, come dicevo prima. Emiliano è un giovane commissario che però viene da una storia un po' particolare, nel senso che è figlio di una famiglia contadina di Mezzadri, di un grosso possidente, il quale a un certo punto, visto che il padre di Emiliano è un bravo fattore, diciamo, gli propone, o meglio gli impone, di far studiare uno dei suoi quattro figli. Tocca a Emiliano, e quindi Emiliano fa il liceo classico pur venendo da una famiglia contadina, quindi si innamora del latino, insomma, cita continuamente frasi in latino, eccetera. Naturalmente la famiglia è da generazioni di fede socialista, come era molto diffuso fra le famiglie contadine dell'epoca, effettivamente. Poi con la presa del potere del fascismo sembra che tutti i socialisti siano scomparsi, in realtà erano milioni e milioni di voti al Partito Socialista. Soprattutto in Emilia Romagna, certo. Soprattutto in Emilia Romagna, esatto. Per cui lui ha la possibilità, poi c'è la guerra mondiale, poi lui deve partire per la guerra mondiale con una serie di conseguenze che si vedranno nel libro. Cosa volevo dire? Che in realtà appunto lui ha la possibilità di guardare con un occhio distaccato la realtà che sta vivendo, insomma, cioè la realtà di un paese dove sembra che vada tutto bene, ma in realtà succede, succede. Si sta instaurando una dittatura totalitaria. Esatto, esatto. Il ragazzo che sparò a Mussolini, la prima indagine del commissario Emiliano Solerti, Andrea Pranstraller ne è l'autore, ce l'ha presentato quest'oggi a Zibaldone. Andrea, grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo con questa serie, tienici al corrente. Grazie a voi, il libro lo trovate alla libreria Le Nuvole, oppure scrivendo alla casa editrice che è Arpeggio Libero. Esatto, Arpeggio Libero, ho fatto bene a ricordarlo che io ancora non l'avevo detto. Andrea, a presto. Grazie. Mesdames, messieurs, bonsoir. Vi faccio strada, non fate rumore. Il sipario si sta aprendo già. Sposi felici. Oh sì. Il flash fa clic-clac. Oh, mi sono mossa. Io e te per l'eternità. Scusa, scusa, scusa, scusa, bacio. Ti do bacio. Del perdono? Cara, caro, grazie. Prego, ma mi ami? Sì, ti amo. Quanto? Tanto. Tanto quanto? Quanto basta. Non ti credo. Giuro. Giuri. Che ti amo. Se è vero, allora scusa. Scuso. Scusa. Scuso, bacio. Sotto i trulli di albero bello andiamo. Va la nave in Argentina, vola bianca colomba, vola che di mamma ce n'è una sola. Va la nave in Argentina, vola bianca colomba, guarda la colombina, vola verso il mare, ce n'è una oh sola. Colombina, colombina, la storna nave. Che porta... Ritornava una rondine al vento, l'uccise. Cadde tra spine. Te l'hanno detto? No. Sì, no. Sì, te l'hanno detto. No. Va la nave in Argentina, vola bianca colomba, vola che di mamma ce n'è una. Va la nave in Argentina, era il 1978, loro erano i Giancattivi. Banzo, spiega un po' tu ai nostri ascoltatori perché mandiamo in onda questo brano. Beh, è facile in realtà per commemorare la scomparsa il 12 giugno scorso di Francesco Nuti, che dei Giancattivi fu membro. E diciamo appunto Francesco Nuti ha avuto una vita complessa, sfortunata si può dire, perché ha praticamente passato gli ultimi 17 anni in una condizione di quasi invalidità o invalidità diciamo direttamente, e oltretutto è morto lo stesso giorno di Silvio Berlusconi, quindi diciamo che sfortunato fino all'ultimo, se mi si passa questa ironia che non è neanche particolarmente voluta, perché appunto era un'occasione particolare per ricordarlo, perché appunto anche per i suoi problemi di salute era sparito dalle scene da molto tempo, e ovviamente la scomparsa del Caimano ha eclissato tutto. E quindi avendo l'opportunità di dedicargli un omaggio, abbiamo preferito evitare di sovrapporlo a Berlusconi, quindi prima le disgrazie, cioè Berlusconi appunto, e poi Dulcis in fundo, un piccolo omaggio a Francesco Nuti che lo merita. Questo era un brano che appariva nel programma Rai Non Stop, andato in onda fra il 77 e il 79, poi varie canzoni di questo programma apparvero anche in una compilation nella quale sono apparsi molti comici che poi hanno contraddistinto la televisione italiana, per esempio Zurre Gaspare, per dire solo il nome. E quindi questa canzone dei Giancattivi introduceva una sezione a loro specificamente dedicata all'interno del programma, e Nuti, va detto, lo scopriremo poi, esordì prima come, a parte al di là della sua militanza con i Giancattivi, esordì prima come cantante che come regista e attore, che è, diciamo, il ruolo per il quale è più conosciuto al grande pubblico, e con i Giancattivi debutterà al cinema nel 1981 con il film, forse uno dei più bei titoli del cinema italiano, Ad Ovest di Paperino. È vero. Ascolta, a proposito di canzoni, ce ne andiamo ad ascoltare un'altra, era il 1982 se non erro, non diciamo qual è il titolo, ma a molti, insomma, ascoltandola la ricorderanno subito, la coglieranno al volo, no? È quasi sinonimica con Francesco Nuti, diciamo. È proprio così, dai, ce l'ascoltiamo, non vi dico il titolo. Canterò per voi una canzone d'amore. Sentite gli applausi, ecco, questi applausi di fondo, perché la versione che abbiamo proposto dell'82 è all'interno di un film mitico, no, Banzo? Sì, Madonna che silenzio c'è stasera di Maurizio Ponzi, seconda esperienza cinematografica dopo Ad Ovest di Paperino, la prima come protagonista assoluto, come giustamente sottolineavi è proprio l'audio del film, è la scena di un film, vi avevo fatto sentire la scena di un film. Vi chiederete perché? Perché Pupa e Pera è stata poi reincisa nel 1988 ed è apparsa nella colonna con un rifacimento, è apparsa nella colonna sonora di Caruso Paskowski di Padre Polacco, ma semplicemente abbiamo preferito questa versione come arrangiamento, è molto più basilare, diretta, viscerale, direi, è strano usare questo aggettivo per una canzone così, però ecco, l'ho preferita nella sua semplicità assoluta rispetto all'altra versione molto più arrangiata e con un suono tardo anni 80, diciamo. Ascolta, chiudiamo questa piccola sezione di omaggio a Francesco Nuti con un'ultima canzone che invece è un po' diversa, ecco, da quella che abbiamo appena sentito, più comiche, con il lato anche più, diciamo, da cabarettista, ecco, di Nuti. Sì, potrebbe essere sorprendente, diciamo, perché presenta una sfaccettatura di Nuti che è poco nota, perché viene sempre associato alla comicità e anche malinconica, una cosa che è apparsa molto nelle sue commemorazioni, effettivamente. Però, come dicevo, in un disco che aveva inciso prima di apparire al cinema nel 1978, un album Siamo un giorno come tanti altri, lo vediamo alle prese con uno stile più cantautoriale, e il brano che sentiamo, I Dementi, potrebbe fare pensare a qualcosa di molto vicino al rock demenziale, invece è una canzone Siria, né più né meno. Ecco, qui c'è anche un paragone interessante, se vuoi, in questa traiettoria, perché qualcosa di simile potremmo dire anche, salvando insomma tutte le distanze, di David Riondino, tra l'altro anche lui toscano, e anche lui, diciamo, con una carriera molto più sviluppata rispetto a quella di Nuti come cantautore all'inizio, ma poi forse conosciuto ai più, è vero, anche come scrittore, però anche come comico, come regista, come attore. Ma sì, diciamo che poi ci sono dei ruoli, delle mansioni specifiche che oscurano un po' il resto della carriera di personaggi, diciamo, estremamente sfaccettati, poliedrici. Nuti ha poi continuato a incidere canzoni, partecipò anche a Sanremo alla fine degli anni Ottanta, e questa continuità della sua carriera musicale è anche motivata dalla presenza di suo fratello Giovanni, che era musicista. Andiamo ad ascoltarci allora questa I Dementi, 1978. Voi che ogni sera sembrate dementi guardando la televisione, che ingoiate il vostro cervello in cambio di un sogno venduto, che comprate la vostra condanna pagando con la libertà. Preferite che altri decidano per voi, che la sorte vi sia preparata. Cosa vale questa vita ormai spenta? Proprio voi che ogni giorno subite lo schiaffo e lo sputo di essere schiavi, che obbedite tremanti e ossequiosi alla voce del vostro padrone, che agognate ideali fittizi creati per farvi più fessi. Preferite che altri decidano per voi, che la sorte vi sia preparata. Cosa vale questa vita ormai spenta? Proprio voi, se vorrete, farete cadere nel fango i ladri e i tiranni. Costruiremo un mondo più vero, un mondo più giusto di questo, dove ognuno conosca il suo onore e riscopra la sua dignità. Proprio noi che sembriamo perduti, scacceremo la nostra paura e saremo come nuovi. Sì, un lato di Francesco Nuti Banzo effettivamente sconosciuto ai più, I Dementi, 1978, una canzone veramente che ci riporta pienamente, non solo come melodia ma anche come contenuto, come testo, agli anni 70, al lungo 68, se vogliamo. Sì, la stagione d'oro del cantautorato, che di lì a poco sarebbe finita, perché poi negli anni 80 cambiò tutto, e cambiò tutto anche per il personaggio del quale abbiamo parlato nella scorsa puntata. Sono ovvietà che purtroppo non possiamo deblare facilmente, e comunque mi sembrava anche un bel modo di omaggiare Nuti, cioè facendo conoscere una sfaccettatura del suo ventaglio espressivo che era poco nota. Io questa canzone personalmente non la conoscevo, e al primo ascolto mi ha molto colpito, perché appunto c'è un'immagine che viene smentita. Ma ti dico, per concludere, che questo brano, che come dicevo è tratto dal disco Un giorno come tanti altri, in realtà era preceduto nel lato A dell'album da Il quadro quotidiano, che invece è una canzone che ha delle atmosfere molto più simili al cabaret, quindi anche questo accostamento, ecco, forse era già curioso, era già uno stacco netto all'epoca, quando uscì il disco nel 1978. Sì, sì, vabbè, stiamo comunque parlando proprio di anni di transizione tra un'epoca che stava finendo e un'epoca molto diversa, quella rappresentata dallo yuppismo, la Milano da bere degli anni 80. E Banzo, facciamo un bel volo pindarico adesso, perché invece parliamo di un disco appena uscito e andiamo subito ad ascoltarci una canzone e poi ne parliamo. Diciamo però sì di chi si tratta. Io sono un cane e Paolo Angeli con questa versione molto bella di Summer, una spiaggia affollata, mi sono confuso anch'io. We'll be right back. Avete sentito la sperimentazione di questi due grandi artisti, Paolo Angeli e Io sono un cane, Summer o una spiaggia affollata? Che Banzo è una canzone, non è un inedito di Io sono un cane, però sì, in questa collaborazione con Paolo Angeli, che è stato in varie occasioni nostro ospite, un grandissimo artista sardo, che suona uno strumento inventato da lui, una chitarra sarda preparata. Dico, non è un brano inedito, ma è un brano che invece era già contenuto nel precedente disco, se non sbaglio, di Io sono un cane. Nel primo disco nel di Io primo, sono un cane, hai ragione, nel primo. La Macarena su Roma del 2010, anzi il brano di apertura, però questa nuova versione è dovuta al fatto che il 9 giugno è uscito questo album collaborativo che si intitola Yalita, spero di averlo pronunciato bene. Si tratta di un arcipelago di isole tunisine fra la Sardegna e la Tunisia, molto piccole queste sei isole, e sostanzialmente è un disco dal vivo che raccoglie incisioni risalenti al 2018, perché nel 2018 per la prima volta Paolo Angeli e Io sono un cane suonarono insieme a Nuoro, si trovarono molto bene e decisero di proseguire la collaborazione con una serie di concerti dal vivo. E questo disco contiene, come sottolineavi, altri brani di Io sono un cane, però anche un brano precedentemente edito di Paolo Angeli, però in versioni completamente diverse e ancora più sperimentali, se possibile, insieme ad alcuni inediti strumentali. Comunque è un disco che vi stiamo facendo sentire, però io consiglierei di ascoltarlo tutto, perché è un flusso di suono, ecco. Eh sì, e a questo proposito andiamo invece con un inedito, no? Sempre da questo album. Sì, che si intitola Sela ed è molto più breve di Summer una spiaggia affollata che abbiamo appena ascoltato. Andiamocela a sentire allora, vediamo un po' cosa ci propongono questi due fantastici artisti. Vabbè, sentite che la sperimentazione, insomma, qui è come un flusso. Tra l'altro, il brano non è che si interrompa in realtà Banzo qui, ma poi continuerebbe in un'altra canzone. Esatto, confluisce nel brano successivo. Comunque mi fa molto piacere aver mandato questo brano, perché benché Zibaldone sia un programma di vocazione più storicamente e schiettamente cantautoriale, tu sai che io ho una passionaccia per i suoni che possono essere definiti, ma anche passione senza alterarla, per suoni che possono essere definiti sperimentali, variamente sperimentali, e questo brano che abbiamo appena sentito rientra a pieno titolo nel non genere che è la musica sperimentale. Eh sì, e adesso andiamo avanti, troviamo Berardo, e il primo brano in realtà si collega un pochino, se vogliamo, anche alle riflessioni che stiamo facendo. Parliamo dei Calibro 35, è uscito il loro nuovo album, ne abbiamo parlato qualche tempo fa qui a Zibaldone, o forse proprio la settimana scorsa, Banzo, no, due settimane fa direi. Due settimane fa, beh, adesso anche Berardo ci propone una canzone da questo disco, sentiamocela. We'll be right back. E beh, non si può non riconoscere il sound dei Calibro 35, noi li mandiamo in onda spesso qui su Zibaldone, li seguiamo da tanti anni e quest'oggi ci arrivano direttamente dal Lussemburgo perché ci ripropone il nostro Berardo Stagliano che torna a trovarci come praticamente ogni mese qui su Zibaldone. Berardo, bentornato, buon pomeriggio. Ciao mio caro, sempre un piacere essere qui con voi a Zibaldone e sempre un piacere parlare dei miei amati Calibro 35. Mi vanto ormai da un quindicennio di aver organizzato il loro primo concerto in assoluto, da allora li seguiamo sempre e ci regalano da tanti anni la sigla di Sentieri Sonori. Non potevo non parlarvi di questo Nouvelles Aventures, il loro nuovo disco che segue un po' di anni in cui si sono dedicati ad altro, hanno fatto la colonna sonora della serie TV Blanca, due volumi di Scacco al Maestro, l'omaggio a Morricone, ci mancava la loro musica e delle nuove avventure in musica ispirate fin dal titolo a Verne e dintorni, direi, e che musicalmente ci riportano il Calibro che amiamo tanto da tanti anni, ma anche una nuova dimensione dei nuovi esperimenti a destra a manca per una band che insomma è uno dei nostri come dire, motivi di pregio e di vanto da italiani, insomma cari ascoltatori di Zibaldone sappiate che per esempio personaggi del livello di Jay-Z o dell'ottimo Dr. Dre hanno campionato brani dei Calibro 35 per dare un po' una dimensione di dove sono arrivati partendo dall'Italia questi ragazzi. Eh sì, tra l'altro Berardo suonano spesso all'estero, fanno live a Barcellona, ormai è una tappa fissa quando suonano fuori dall'Italia, sono stati anche un paio di mesi fa più o meno, e noi avevamo mandato in onda Eteretaco, spero di pronunciarla bene, qualche settimana fa proprio quando era appena uscito il disco, ma è bene tornarci sopra con la tua poi spiegazione, visto che tu li conosci molto bene. Noi ci siamo sentiti questo brano che si intitola Gunpowder, che è il terzo brano dell'album. Come dice il titolo, un brano esplosivo per un disco molto vario e vi posso dire, per esempio, per aggiungere un aneddoto, qualche settimana fa ero a Milano, sono passato in studio a trovare i ragazzi che poi sono stati ospiti la settimana scorsa a Sentieri Sonori, li ho visti anche lavorare in studio, sai Steven, e stanno lavorando alla colonna sonora della seconda stagione di Blanca. E ti devo dire che vedere Tommaso Colliva ai controlli, Tommaso Colliva mastermind Calibro 35 nonché vincitore di Grammy Award per i Muse, e attorno a lui Enrico Gabrielli e Massimo Martellotta che aggiungevano cose a destra e manca lavorando con le immagini della serie sullo schermo, è stata una cosa fantastica. Lo immagino e lo credo proprio bene, è bello essere insomma nella stanza dei bottoni insieme a loro. E Berardo, prima di passare al secondo brano di questo collegamento, ti lascio un attimo spiegare ai nostri ascoltatori come si fa per ascoltare Sentieri Sonori, il programma che conduci da tantissimi anni su Radio Ara in Lussemburgo, e seguire anche le tante novità che tu presenti sia nel programma sia sulla pagina web. Ti ringrazio mio caro, 26esima stagione di Sentieri Sonori è agli sgoccioli, domani ultime interviste e poi ancora un altro paio di trasmissioni prima della pausa estiva. Ci potete ascoltare in live streaming o in podcast da ara.lu, il sito della nostra radio, oppure da sentierisonori.blogspot.com, il nostro blog che, come dicevi giustamente, non ha solo annunci di trasmissioni e podcast, ma ha tante novità, uscite, video e molto di più, e oltretutto insomma quest'oggi riuniamo tre settimane di trasmissione, la scorsa settimana abbiamo avuto i Calibro, la prossima avremo te come ospite in trasmissione, e invece giusto domani abbiamo quelli di cui gli altri musicisti di cui vi volevo parlare. Allora guarda, ti cedo subito la parola perché qui andiamo nella zona del napoletano, se ho capito bene, giusto? Esattamente, insomma zona a me familiare, da lato paterno. Si fanno chiamare il Tesoro di San Gennaro, sono un progetto creato da Salvi Silvio Vassallo e Valentina Gaudini, che sono coppia nell'arte e anche nella vita. Per situarveli, Salvio, fra le varie cose, ha fatto parte di Spaccanapoli, grande band che si è fatta conoscere nel mondo con la Real World di Peter Gabriel, mentre Valentina è, fra le varie cose, un'allieva del maestro Murolo. Quindi, insomma, due musicisti già da una bella storia dietro le spalle, che avevano pubblicato un primo disco 10 anni fa, poi hanno fatto vari progetti, rielaborazioni di canzoni di Luciano Berio ed altro. Tornano con questo nuovo disco che è uscito il 14 aprile, si intitola Amore e Guerra, ed è un disco terribilmente affascinante perché unisce la tradizione della musica napoletana, della melodia napoletana, nel cantato di Valentina, assolutamente splendido, e le avventure sonore invece di Salvio, che vanno in tante direzioni diverse, mescolando anche la, come dire, strumenti organici a elettronica e strumenti sintetici, con anche un po' di collaborazioni di pregio. Ne cito una: Ernesto Vitolo, lo storico ammondista del grande Pino Daniele, e con lui altri grandi nomi della musica napoletana. Loro, lo ripeto, si chiamano Il Tesoro di San Gennaro. Se amate le sperimentazioni e i melting pot fra mondi lontani, andate a scoprire il loro Amore e Guerra. Eh sì, è una bellissima proposta. Tra l'altro, insomma, il nome del progetto, insomma, ci fa capire proprio che siamo a Napoli, Il Tesoro di San Gennaro. E anche il brano, Berardo, che ci andiamo ad ascoltare, è una rivisitazione di Carosone, Pigliate una pastiglia. Adesso te la lascio lanciare a te, però approfitto anche per salutarti, mandarti un abbraccio, augurarti buona estate. Noi, come sempre, a parte ritrovarci la prossima settimana su Sentieri Sonori, ci ritroveremo qui su Zibaldone a settembre. Con molto piacere, buona estate a te, te la darò la prossima settimana a Sentieri Sonori, buona estate a tutti gli ascoltatori di Zibaldone, ci ritroviamo a partire da settembre-ottobre, vi lascio con questo gioiellino e questa cosa che penso vi stupirà, Pigliate una pastiglia, il brano di Carosone, riletto da Il Tesoro di San Gennaro. Buona estate a tutti, ciao! Dai cellulari dei 5 youtubers, dalle telecamere di sorveglianza, si cerca di ricostruire uno straordinario spettacolo della natura. Trovato un cellulare in un cassonetto che alla vigilia della direzione del Partito Democratico si trasforma in un taxi. Momenti di tensione, poi le 100 persone trovate all'interno, in maggioranza gli amici di sempre, promettono battaglia, ma non basta a frenare la perdita di potere. Nonostante tutti i problemi che ci riguardano, le ceneri di Silvio Berlusconi sono state trasferite in un potente SUV. Riposeranno nel solco da lui tracciato. La sua compagna ancora ha tante cose da capire. Dei miliardi, nessuna traccia. Stoccata di Renzi al PD, ma davvero non volete finire così? Per una folle sfida social. Al Consiglio dei Ministri il disegno di un bambino di 3 anni e mezzo si trasforma in un primo pacchetto di interventi per assicurare più garanzie agli indagati. Chi guida drogato o ubriaco resterà europeista e atlantista al 7,6%. Semplice, sana e adatta alle famiglie. In arrivo la prima ondata di caldo dall'Africa da domani e a sorpresa anche Beppe Grillo. Prime fughe dalle città e poi passa montagna. 32 gradi a Firenze, 30 a Roma in Pocara. Molto probabile un nuovo rialzo anche a luglio. Soddisfatto il CT Mancini, abbiamo tante indicazioni importanti per il futuro. Le balene franche australi chiedono: ma davvero volete finire così? Forza Italia va avanti unita nel segno di Silvio Berlusconi, il cui nome continuerà ad essere Astor Patagonia per raccogliere più visualizzazioni e followers. Minato nel fisico, morirà ogni anno per la mala giustizia. Salvini, onoriamolo impegnandoci a realizzare i suoi sogni. Girare in costume oppure senza da caorle alle spiagge della Sardegna. Avete sentito che sono tornate dopo Berardo anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, partirei subito dai riferimenti ovviamente a Berlusconi. Vuol dire Astor Patagonia, no? Sì, quello non mi era chiaro, infatti volevo chiederti un attimo lumi, ecco. Ma guarda, io non sapevo che avesse assunto questo nome, oltretutto per avere più visualizzazioni sui social, ma... Su TikTok Berlusconi... forse? Sì, su TikTok, perché forse il nome Berlusconi era screditato e Astor Patagonia forse era un omaggio al grandissimo del tango, Astor Piazzolla, anche se non credo che fosse originario della Patagonia, ma d'altronde Berlusconi era molto creativo. Comunque morirà ogni anno minato nel fisico a causa della mala giustizia e quindi diciamo che le ultimissime sembrano confermare un po' la tesi del complotto delle toghe rosse. Comunque, sempre per riferirci a Berlusconi, perché purtroppo non ce ne libereremo presto, volevo ricordarti che le ceneri, a me sembra molto poetico, le ceneri di Berlusconi riposeranno nel solco da lui tracciato. È forse la notizia più poetica, ripeto, che abbiamo sentito in tanti anni di ultimissima. Sì, Banzo, poi invece interessante questa notizia che abbiamo scoperto su come funzionano un po' le proposte del governo, del Consiglio dei Ministri, no? Ti riferisci al disegno del bambino di 3 anni sì, e mezzo? Sì. Sì, beh, d'altronde diciamo, siamo un po' allo sbaraglio, effettivamente. Io, peraltro, sono convinto che il disegno fosse bellissimo, Steven. Non l'ho visto, ma tu sai che quando un bambino ti fa vedere un disegno... Ne va orgoglioso. Io, avendo avuto una sorella più piccola, ero molto allenato ai tempi. Peraltro i suoi disegni erano veramente bellissimi. Ma sto divagando. Volevo chiudere con la prima notizia, tornando un po' indietro, questa sconcertante trasformazione che mi ricorda, sempre per parlare di cose antiche, i Transformers, ecco, perché abbiamo questo cellulare in un cassonetto che si trasforma in un taxi, è una cosa incredibile, e oltretutto dentro questo taxi ci stavano 100 persone che erano i vecchi amici di sempre, quindi io mi chiedo dove stessero queste 100 persone nel momento in cui il taxi era ancora un cellulare, forse stavano dentro al cassonetto appunto. Probabilmente sì, comunque insomma vediamo se la prossima settimana riusciamo a svelare l'arcano. Noi andiamo avanti perché siamo ormai nella fase finale di questa puntata di Zibaldone e troviamo i brani italiani cantati in spagnolo, ossia De Italia Otra Parte. Ve ne proponiamo subito uno, vediamo se riuscite magari anche a cogliere qual è l'originale. Loro sono Los Daltons, Perù 1967. Quando te pones esa rosa en la boca, recuerdo aquella vez que yo te vi tan sola, Teresa. cuando besé por vez primera esa boca, te quise y enamorado desde entonces voy. Teresa, no sé en verdad si tú me quieres, será tal vez que no te atreves o tienes miedo de entregar tu amor. Teresa, tal vez me quieres o me ignoras, no me importa, me basta estar un poco junto a ti, a ti. Amarte como jamás nadie te ha amado, te quiero perdonar si mientes, me basta con lo que me das. Teresa, te pones esa rosa en la boca. Recuerdo aquella vez que te encontré tan, tan sola. Amarte como jamás nadie te ha amado, te quiero perdonar si mientes, me basta con lo que me das. Teresa, Los Daltons, Teresa Banzo. Beh, insomma, secondo me alcuni ascoltatori hanno colto l'originale, o no? Beh, perché l'originale è la famosissima canzone omonima di Sergio Endrigo, del quale il 15 giugno, che il 15 giugno avrebbe compiuto 90 anni, quindi il 90° anniversario della nascita, perché purtroppo Endrigo ci ha lasciato già da vari anni. E quindi abbiamo pensato, essendo uno dei più grandi cantautori italiani e anche, se mi permetti, uno dei cantautori che più trasversalmente raccoglie approvazione nella redazione di Zibaldone, perché non siamo d'accordo su tutto, però a livello di gusti Endrigo lo amiamo tutti, ci è sembrato giusto omaggiarlo all'interno della nostra rubrica d'Italia Otra Parte, che, come dico sempre, si dedica molto alle oldies, perché la pratica di tradurre le canzoni in altre lingue era più comune alcuni decenni fa. Ecco, su Teresa c'è molto da dire, quindi preparati, Steven. Mi preparo. Allora, innanzitutto avete sentito, Los Daltons peruviani abbandonano il caratteristico arrangiamento originale che tendeva al sirtaki, comunque aveva questi aromi di Grecia molto evidenti. Ma non sono stati solo Los Daltons a fare questa scelta in sede di arrangiamento, perché di questo brano esistono almeno 4 versioni in spagnolo, 3 proposte da artisti latinoamericani con questo testo che avete appena sentito e una da un artista spagnolo. Il testo spagnolo è stato interpretato da Francisco de Miguel nel 1966, mentre per quanto riguarda il versante latinoamericano, prima dello Los Daltons lo avevano interpretato Los Yaqui dal Messico, sempre nel 1966. Ma c'è anche un'altra versione interpretata dal cileno Arturo Millán nel 1970. Quindi una canzone che veramente è stata interpretata da moltissimi e indica appunto anche il fatto che avesse avuto un grandissimo successo. E anche il fatto che ne esistano 2 testi diversi, secondo me, è abbastanza esplicativo di come poteva essere la situazione sui diritti di autore all'epoca, perché non esisteva un'unica traduzione, ma ne esistevano 2, come abbiamo detto, e quella latinoamericana è passata da un paese all'altro. Ascolta, a proposito di Cile, che nominavi in una di queste versioni, l'ultima cronologicamente di Teresa, noi adesso andiamo un momento in Cile perché lì troviamo invece un'altra versione di un altro gruppo di sempre Sergio Endrigo. Qual è? Spiegalo un po' tu. Sì, esatto, si tratta del gruppo Los Grillos de Chañaral. Nome un po' ostico da ricordare, no? Esatto, è sicuramente ostico, ma c'è un motivo, perché questo gruppo, Los Grillos, era originario di Chañaral, che è un piccolo paesino nella provincia di Atacama, chiedo scusa, e sostanzialmente non si trova quasi nulla su questo gruppo. Ecco, io dico sempre, faccio delle ricerche su Discogs non ci sono. Ecco, io li ho trovati solo su YouTube con alcune canzoni caricate sempre dallo stesso utente che sospetto potesse essere un membro del gruppo e poi appaiono in una pagina di memorabilia, cantarono un dia in Chañaral su Facebook, non si sa niente. Comunque, la versione che vi proponiamo è la canzone Lontano dagli occhi del 69, che si trasforma in Lejos de mis ojos, è stata incisa nel 74, e sempre per la precisione segnalo che ne esiste un'altra versione in spagnolo, dal titolo leggermente diverso, Lejano a mis ojos, incisa nel 70 dalla messicana Estela Núñez. Quindi ancora una volta due testi diversi per la stessa canzone tradotta in spagnolo. Messico-Cile, un'altra volta. Andiamoci a ascoltare Los Grillos de Chañaral con questa Lejos de mis ojos di Sergio Endrigo. ¿Qué será? Esta tarde de invierno termina más fría y más gris. ¿Qué será? Que los niños en las viejas calles no quieren jugar. No sé por qué la alegría de los viejos amigos no me divierte hoy. Nadie comprende que encuentro tan solo, me siento tan triste. Si tú estás tan lejos de mí, recuerdo los días en que tú me querías, días felices. Si tú estás tan lejos de mí. Ahora sé que esas flores que llenan los parques se acuerdan de ti. Ahora sé cómo saben las cosas amargas que quedan de ti. Nadie sabrá que mi vida no tiene sentido, que ya todo terminó desde que te perdí. Me encuentro tan solo, me siento tan triste. Si tú estás tan lejos de mí. Recuerdo los días en que tú me querías, días felices que no volverán. Me encuentro tan solo. Vibaldone, perché dove saremmo noi senza Leopardi? La rubrica di libri del nostro programma. Avete sentito che è arrivato il momento del libro della settimana? In realtà questa settimana abbiamo già parlato di un libro con l'intervista ad Andrea Pranstraller, ma ne parliamo ancora. E tra l'altro, Banzo, nella nostra rubrica Aurora parliamo di più di un libro, ecco, perché parliamo di una serie di romanzi dello scrittore tedesco Volker Kutscher, molto conosciuto o magari indirettamente conosciuto perché dalla serie dei suoi romanzi, che credo siano 6 o 7 quelli usciti in lingua originale in tedesco, è stata tratta una famosa serie televisiva, Babylon Berlin, che in realtà parla solamente, diciamo, si limita al primo romanzo della serie. Non so se tu, Banzo, l'hai vista o ne sai qualcosa. No, però da lettore affezionato, tu sai che io preferisco nettamente la letteratura al cinema e gli audiovisivi in generale, devo fare un po' una osservazione che mi intristisce, che quando cerco un'opera letteraria o a fumetti su Google, se ne è stato tratto un adattamento cinematografico, una serie, qualunque cosa audiovisiva, appare sempre prima dell'opera originale. Ma questo era un po' l'angolo delle lamentele e lo chiudiamo qui. Continuiamo noi invece a parlare di questa serie. Ne parliamo visto che anche il romanzo di Pranstraller era un giallo storico, ecco, un noir con un'ambientazione storica. Anche la serie di Kutscher è simile e si, tra l'altro, si sviluppa negli stessi anni, a cavallo tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, nella Germania di Weimar, la Germania che poi, insomma, nel gennaio del 33 vedrà soffrirà sulle proprie carni l'arrivo al potere di Hitler e l'instaurazione della dittatura nazista. Si tratta di una serie di romanzi, tra l'altro molto ben scritti, di facile lettura, che ci riportano con una contestualizzazione storica molto ben fatta alla Germania, appunto, e particolarmente alla Berlino di quegli anni. Il primo romanzo, che in Italia è uscito per Feltrinelli, come tutta la serie, nel 2017, se non erro, era uscito in Germania 10 anni prima. La serie è del 2007-2016 in originale in Germania. In Italia è arrivato più tardi, quando, appunto, insomma, è uscita la serie. E infatti il primo romanzo si trova in italiano pubblicato da Feltrinelli come Babylon Berlin, quando in realtà, ecco, questo è stato il titolo dato alla serie. Poi è stato ristampato con Ombre su Berlino, ecco, più corretta, o Il pesce bagnato addirittura. Quindi ci sono, insomma, un po' di titoli diversi. In ogni caso è il primo volume della serie, ne è uscito nel 2018 un secondo, La morte non fa rumore, e nel 2019 un terzo, Goldstein, che segue l'originale, ecco, la cronologia anche degli originali. Da pochissimo, a meno che io non l'ho ancora letto questo, vi dirò la verità, però ne è uscito anche un quarto intitolato Il Tempio del Piacere. Ogni romanzo è ambientato in un anno diverso. Si comincia nel 1929, il primo volume, il secondo volume nel 1930 e avanti così. Il personaggio principale è questo ispettore Gereon Rath, che da Colonia, tra l'altro con un padre anche lui commissario di polizia, e amico dell'allora sindaco di Colonia, Konrad Adenauer, poi oppositore del nazionalsocialismo e insomma importantissimo cancelliere della Germania occidentale nel dopoguerra. Comunque Gereon Rath, per ragioni anche complicate sul lavoro a Colonia, si trasferisce a Berlino e lì, insomma, nella sede di Berlino si trova a dover lavorare su casi a volte molto particolari, che hanno a che fare con la politica ma anche con la società dell'epoca. Ad esempio il primo volume ha a che fare con una storia, diciamo, che mette insieme il lavoro della Buon Costume, sezione in cui ha confinato in quel periodo Rath, con quindi set pornografici dell'epoca e altre situazioni, diciamo, nella notte berlinese fatta di cabaret, di comunque criminalità organizzata, di night clandestini. E tra l'altro ovviamente la politica è molto presente, perché insomma le manifestazioni dei comunisti e le violenze delle SA nazionalsocialiste insomma fanno da sfondo, e non solo da sfondo, e così via, Banzo, perché poi non sto a raccontare, ecco, ai nostri ascoltatori di che cosa parlano anche i successivi volumi. Dire solamente che La morte non fa rumore, che è il secondo volume della serie, è ambientato a Berlino nel 1930, e la storia parte dalla morte di una famosa star del cinema muto, Betty Winter, durante le riprese del suo primo film sonoro. Ecco, anche qui insomma si entra anche in un momento importante, che è quello della transizione dal cinema muto al sonoro, in una industria cinematografica come quella della Repubblica di Weimar, che era diciamo all'avanguardia, soprattutto alla fine degli anni 20 e all'inizio degli anni 30. Mentre Goldstein, ambientato nel 1931 a Berlino, la politica ritorna ad avere un grande protagonismo, e in questo caso Goldstein è il nome di un membro della mafia americana di origine ebrea, che arriva a Berlino appunto nella primavera estate del 1931, e insomma finisce in mezzo delle storie piuttosto complicate. Chiuderei solo con una di quelle citazioni, no, che si fanno, Banzo, per vendere i libri, che a volte appaiono in quarta di copertina, e è questa, che dice: il migliore della serie, riferendosi a Goldstein, finora c'era il figlio bastardo di Christopher Isherwood e Raymond Chandler. Ovviamente è questionabile, però c'è qualcosa di vero se pensiamo ai romanzi di Isherwood ambientati nella Berlino degli ultimi anni della Repubblica di Weimar. Comunque, Steven, io sono stupefatto da come tu sia riuscito a parlare per alcuni minuti di romanzi ambientati nella Repubblica di Weimar, senza, riferendoti a molte cose, ovviamente alle manifestazioni comuniste, alla politica di quell'importante importante breve periodo storico, al cinema sonoro allora nascente, addirittura ai set pornografici, ma non hai menzionato la parola chiave che moltissimi di noi collegano automaticamente alla Repubblica di Weimar, cioè l'inflazione. Ecco. Sì. E spero che nei libri se ne parli, perché è un aspetto veramente emblematico di quel periodo. Sì, soprattutto a partire dalla fine del 29 e l'inizio del 30, ma già prima nel fino al 23. Più che nel primo romanzo, giustamente entra in scena la recessione, la presenza di una grande quantità di disoccupati a partire del secondo volume, sì, e vedremo nei prossimi, ecco. Comunque, insomma, il giallo è un genere di moda, lo sappiamo, ce ne sono un'infinità negli ultimi tempi, comparato con 20-40 anni fa. Alcuni sono meritevoli, quelli di Kuscher sicuramente, e tra l'altro Kuscher, diciamo, riporta anche la questione del romanzo storico, un altro genere di moda, che ovviamente, ne abbiamo parlato anche con Pran Straller, apre insomma delle questioni ovviamente sul come si scrive la storia, e anche diciamo la lettura che poi si offre di un periodo storico. Insomma, abbiamo nominato già più volte in questo caso la serie, la trilogia di Antonio Scurati su Mussolini. Ecco, un tema di cui dibattere, di cui sicuramente, Banzo, torneremo ancora a parlare a Zibaldone. Sì, perché effettivamente, Steven, diciamo che noi nella storia ci immergiamo molto spesso con piacere, e diciamo che se c'è anche un mistero abbiamo una ragione in più per farlo. Eh sì, assolutamente così. Siamo arrivati davvero alla fine di queste due ore di Zibaldone. Banzo, è il tempo dei saluti, ma anche il tempo dell'ultimo trago. Che cosa abbiamo in serbo per i nostri ascoltatori, per salutarci e augurargli un buon venerdì sera? Abbiamo un pezzo di Ve André, e non è un errore di pronuncia, perché se avete baticato YouTube degli ultimi anni lo potreste conoscere. Ve André, scritto come Ve, come l'articolo inglese, ecco, è un personaggio pseudonimo del bergamasco Alberto Ghezzi, che era emerso intorno al 2018, proponendo con arrangiamento e voce schiettamente De Andreiano, cioè proprio di conclamata imitazione di De André, brani di stile rap e trap, quindi qualcosa di profondamente antitetico rispetto alla, alla poetica di Fabrizio De André, ovviamente, per fare un esempio, Vendetta Vera di Truce Baldassi, ecco. Per chi conosce il brano, ecco, abbastanza sconcertante, andateveli a cercare, erano molto godibili queste cover, però diciamo che avrebbero lasciato un po' il progetto De André confinato a livello di meme, mentre invece già nel 2021 Vezzi aveva proposto un mini con 4 inediti, e questo brano che vi proponiamo oggi invece è tratto dal primo album autografo completo di De André, dal titolo Mentre non riesco a dormire, uscito il 9 giugno, è proprio una data piena di uscite. E il brano che ascoltiamo si intitola Signora Mia, si ricollega un po' all'attualità come la prima canzone di oggi e alle polemiche sulla cosiddetta cancel culture. È un pezzo arguto e a me, nello stile canoro, più che De André, ricorda vagamente Io sono un cane, ecco. Allora ce l'andiamo a sentire. Banzo, grazie davvero di essere stato con noi, ci ritroviamo la prossima settimana. Alla prossima, Steven. E come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che alle 19.53-54 tutti venerdì sera diceva: troverete prestissimo le ceneri di questa puntata nel solco del nostro podcast. Sì, ecco, hai ragione. Da domani mattina sarà disponibile in podcast. Banzo, grazie ancora. Ciao a tutti, buon venerdì sera e godetevi questa Signora Mia. Lui è De André. Non si può più dire niente, signora mia. Questo è razzismo al contrario, signora mia. I giovani non hanno più voglia di lavorare, signora mia. E forse è arrivato il momento di andare via. Quanta nostalgia di quando qui era tutta campagna. Era un paese della cuccagna. Cantavo a voce spiegata Romagna mia, bevevo vecchia Romagna. Se ti arrangiavi non correvi il rischio che ti prendessero in castagna. Si lavorava, si guadagnava, ma soprattutto Romagna magna. Ora non c'è più religione e neanche grammatica. Vogliono che si parli con la Schwa come a Napoli e di crisi climatica. Questa gente fanatica che non ha etica, non sa accettare una critica e neanche una pacca goliardica sulla natica. Non si può più dire niente, signora mia. Questo è razzismo al contrario, signora mia. I giovani non hanno più voglia di lavorare, signora mia. E forse è arrivato il momento di andare via. Quanta nostalgia di quando il mondo era molto più semplice, di quando si poteva scegliere tra sfruttati o sfruttatori, fare proteste o fare lo gnorri. C'era da farsi il culo, faticare come un mulo, lavorare pure grazie. Non come adesso che vogliono i soldi per pagare il mutuo del buco. Se non lavora si ragna, se lavora troppo si ragna. Non consuma taccagna, intanto l'economia ristagna. Vogliono le ferie pagate, vacanze d'estate, permessi la malattia. Vogliono pure il diritto di far sindacato, non pisciare in una bottiglia. La gente si sposava vergine, America era terra vergine. C'era solo da ammazzare qualche pelle rossa, ma per il resto era semplice. Non si può più dire niente, signora mia. Questo è razzismo al contrario, signora mia. I giovani non hanno più voglia di lavorare, signora mia. E forse è arrivato il momento, sono 20 anni che dico che vado via. Si poteva dare del fron in giro con il mio socio. Si poteva dare del nick in TV, Winnie poi tigro. Si poteva dare del muso. Saluti signor maresciallo. No, no, no, no, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Ma cosa sono tutti questi beep? Guarda che questa è una canzone di denuncia sociale. Noi dobbiamo poterle dire queste cose. E paté la bourgeoisie. Ma se non le censuriamo non ci fanno passare il pezzo in radio. Non si può più dire niente, signora mia. Questo è razzismo al contrario, signora mia. I giovani non hanno più voglia di lavorare, signora mia. E forse è arrivato il momento di andare via. Ma quanto si stava bene, signora mia. Ma dove andremo a finire, signora mia? Questa cultura meschina della cancellazione. Uno non può andare in televisione a dire che ha violentato una piscina quando era bambina. D'accordo con me oppure no? Signora? Signora?